Dipenderà molto anche da queste 2 settimane, vedremo il primo impatto che questa riapertura avrà avuto sul Paese, se la curva dei contagi continuerà a scendere. Dipenderà da una serie di cose, ovviamente io me lo auguro. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Guardi, io me lo auguro vivamente che il campionato riprenda, e se non fosse così sarebbe surreale per un ministro dello sport, anche rispetto a tutto quello che leggo in questi giorni. Ovviamente deve avvenire in sicurezza, deve avvenire quando ci sono tutte le condizioni. Il ministro dello sport non si può permettere di dire non se ne parla. Può dire la sua opinione, ma siccome lui non è il padrone del calcio, i giocatori e i calciatori sono molto più curati di tutti gli altri, quindi sono in condizioni di verificarlo. Per quale motivo un ministro della Repubblica si permette di dire di calcio non se ne parla? Vorrei utilizzare la sua gentilezza per dire al signor ministro dello sport che si parla di tutto in democrazia e che non decide un ministro da solo. Non sono la proprietà né del Milan né dell'Inter. A me interessa che sia anche un segnale di ripartenza, di socialità. Se si deve giocare a Milano piuttosto che a Firenze o piuttosto che a Napoli o a Reggio Calabria, il problema, per quello che mi riguarda, non si pone. Vede, i toni di questi giorni sono stati determinati anche da una pressione, secondo me, eccessiva da parte di chi ci chiedeva di decidere subito, immediatamente, la data. Oggi noi non abbiamo gli elementi che ci consentono di dire se a metà giugno sarà possibile riprendere il campionato. Io ovviamente me lo auguro. Eccoci qui, sono in tanti che se lo augurano. Da ieri sera se lo augura anche il ministro dello sport Spadafora, e poi questa mattina abbiamo letto tutti l'intervista sul Corriere della Sera, nella quale dice c'è una roadmap chiara: 4 maggio inizio allenamenti individuali, 18 maggio inizio allenamento di gruppo, poi se ci saranno le condizioni il via al campionato. Credo che se l'avesse detto così una settimana fa ci saremmo risparmiati il casino del weekend, ma evidentemente ricordo male io. 800 24 00 24 numero verde per intervenire, 349 238 6666 i vostri sms e whatsapp. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Saluto anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ciao Ivan. Ciao, buongiorno a voi. Io ricordo che non fosse così deciso, ad esempio, sulla fase 1 della roadmap, quella del 4 maggio, mi sembra gli sia stata imposta, poi scopro questa mattina che era tutto chiaro, ma forse ricordo male io, Ivan. Ma noi siamo fatti per essere presi in giro, caro Giovanni, anche da questo personaggio che dice che è surreale quello che un ministro dello sport non accompagni verso la ripartenza. Ha fatto di tutto per evitare che il calcio ripartisse. Non è che noi viviamo su Marte, noi viviamo a contatto stretto con i presidenti, con i politici, con gli sportivi, con i giornalisti, con le malizie, con le battute, con le dietrologie. Quindi è inutile che sia a raccontarci delle balle come ha raccontato oggi. Ha cambiato completamente opinione per una semplice ragione, perché l'Italia si è rivoltata, perché la politica si è rivoltata, perché i giornali finalmente hanno preso una strada da oggi, una strada univoca, che è quella della ripartenza per la sopravvivenza. Però non ci prenda in giro. Io sono contento che oggi faccia questa bellissima marcia indietro, ma non venga a dire surrealità o qualcosa del genere, perché sennò veramente mi incazzo. Sì, ha detto sarebbe surreale se la Serie A non tornasse, se il ministro dello sport ti fasse... Infatti, l'ho scritto l'altro giorno, gli ho scritto, guardi, caro questo. Ministro, un ministro dello sport deve accompagnare la federazione, la Lega, nella direzione. Poi, se non è possibile giocare perché... i dati sono peggiori, perché il virus non è sempre virulento, altre cose. Allora tutti noi di fronte a un'evidenza ci arrendiamo, nessuno vuole far pontaggiare o morire le persone, soprattutto i calciatori, però lui ha fatto l'impossibile personalizzando la cosa con un grandissimo senso di protagonismo assoluto, scrivendo su Facebook delle cose inenarrabili, rispondendo al suo elettorato, che non so quale sia più, perché mi sembra che anche i 5 Stelle l'abbiano mollato. Quindi per favore, ok, ok, accettiamo, tolleriamo anche questa intervista, accettiamo il fatto che finalmente abbia cambiato opinione, era ora, quindi significa che è una persona sotto un certo punto di vista razionale. Io non ho niente contro di lui, ma ho tutto contro tutto quello che ha fatto fino ad oggi. Pier? Ma insomma sì, Ivan si infervora, io sai che sono più morbido, ma alla fine la sostanza è quella, nel senso che si sta arrivando a una soluzione di buon senso, che ripeto, non è giocare a tutti i costi, non è giocare a tutti i costi. Io vorrei tornare allo stadio, raccontare delle partite, ma non vorrei infettarmi, non vorrei che nessuno si facesse male. Se non ci saranno le condizioni, visto che insomma da ieri c'è la ripartenza, vedremo fra due settimane che tipo di scenario avremo. Se non ci saranno le condizioni, il calcio si deve fermare. Se non ci saranno le condizioni, il calcio si deve fermare. Ma come poi, non è che tu vai in campo un minuto dopo, non è come andare a fare l'impiegato che ti aprono l'ufficio e torni in ufficio. Il calciatore ha bisogno di un tempo, che già qui è abbastanza stretto, per tornare alla forma fisica. Si doveva dare la possibilità ai giocatori di allenarsi in sicurezza, e poi tra 2-3 settimane si faranno tutte le valutazioni del caso. Io non credo che ci sia nessun irresponsabile. Ci sarà anche un discorso di, chiaramente, di valutazione a livello europeo. È vero che il virus può essere diverso da un paese all'altro. Siamo tutti appesi domani alla decisione della Germania sulla Bundesliga. Appunto, è inutile appunto, che ci giriamo intorno. Guarda, veramente nessuno, a me non me ne frega niente. Voglio essere molto chiaro. Mi piacerebbe, è ovvio. Mi piacerebbe perché amo questo sport, perché penso che sia parte della normalità della vita, perché penso che abbia un valore economico che non deve essere denigrato, ma anzi deve essere sottolineato, perché significa PIL, significa fatturati, significa posti di lavoro. E su tutta la questione sì, non si è capito, francamente non si è capito. Io ieri sera ho avuto su Instagram Renzi e Salvini, ho invitato Spadafora, lo invito anche adesso, penso che nelle prossime ore possiamo invitarlo anche qui, Pier. Ma l'ho invitato anche lì, l'ho invitato sia su tutti, sullo strumento che preferisce, perché davvero non c'è, credo, da parte mia, da parte nostra, nulla di pregiudiziale. Il governo sta vivendo una partita impegnativa. Io non vorrei essere al posto del governo in questo momento, neanche al posto dell'opposizione. Cioè è una situazione senza precedenti, per cui ci vuole grande rispetto per la difficoltà delle scelte, che sono complicatissime, perché un conto è giudicare da fuori e un conto è valutare. Sì, diciamo che non complicarsi la vita per due settimane sarebbe stata un aiuto. Voglio dire, dobbiamo provarci. Se ci riusciremo, ce lo dirà, lo scopriremo solo vivendo. Sì, ma poi io credo, lo chiedo anche a Ivan, poi bisogna essere chiari su che cosa significa si verificherà, se ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza, perché il nodo adesso è questo. Leggo sempre dalle parole del ministro Spadafora, è stato fatto un buon lavoro di base per il protocollo medico della Federcalcio, quello che non più tardi di qualche giorno fa era stato giudicato inadeguato. Entro la fine della settimana ci sarà il responso del comitato tecnico scientifico, poi però il nodo è sempre quello, il rischio zero non esiste, non esisterà per il calcio, non esisterà per il 99,9% delle attività industriali di questo paese finché non ci sarà il vaccino. E quindi io non vorrei che l'avversione uscita dalla porta principale, Ivan, rientrasse poi dalla finestra dei tecnicismi. Il comitato tecnico scientifico ha un valore consultivo. Poi deve decidere la politica, cioè non può decidere il comitato tecnico scientifico né il protocollo della FTC né il protocollo del CONI, quello di Casasco. Deve essere la politica a fare una sintesi di quello che riceve a livello, poi deve vedere anche valutare le condizioni del paese in quel periodo. Manca un mese e mezzo all'ipotetico inizio o ritorno del campionato. In un mese e mezzo possono accadere tante cose, abbiamo visto che toccando ferro le cose stanno leggermente migliorando, o se non in maniera abbastanza rapida, anche se 190 morti non sono certamente uno scherzo al giorno. Però insomma, bene o male c'è chi è molto più avanti di noi e c'è chi è molto più indietro. Io dico semplicemente questo: sì, si poteva risparmiare un sacco di grane, ma anche a noi un sacco di grane, accompagnando questo tipo di percorso. Poi ti ripeto, di fronte all'evidenza tutti si fermano, ma la realtà è un'altra, che tutti sottovalutano. Se non si riparte a giugno, a metà giugno, ci sono squadre che saltano, cioè non è che squadre che non hanno i soldi, non hanno liquidità, non pagano gli stipendi, cioè, ragazzi, non è così semplice dire. Non è un gioco, non è un gioco, è una parte dell'economia. E ripeto, è anche una parte dell'economia che ha un valore, ma anche di racconto del paese. Ti do due dati che pochi sanno. Allora, il monte stipendi della Serie A, per dire la differenza, è di quasi 1,8 miliardi, no? Quindi quando si parla di 4 mensilità, l'abbiamo scritto l'altro giorno, sono oltre 600 milioni lordi. Io parlo sempre in lordo adesso, non più in netto, perché Ronaldo non costa 31, ma costa 60 alla Juventus. Benissimo. Sai quanto è il monte stipendi della Serie B? Complessivo di tutte le squadre, 139 milioni. Sai cosa vuol dire? Che costa meno tutta la Serie B della Juventus. Sì, sì. Quindi, e di altre squadre. Parliamo di un altro mondo. La Serie A è un'altra cosa, produce profitti, ha un fatturato a 5 miliardi, 1 miliardo e 4 di imposte. Cioè, io adesso ne faccio non solo una questione economica, ne faccio anche una questione di, ripeto... Ivan, aggiungo questo, per intenderci, la Francia, dove il governo ha fermato d'imperio il campionato, ieri la Lega francese è andata dal governo, si è fatta dare 224 milioni di prestito, dovrà restituirli, e già questo è un problema, perché chiaramente ci sono presidenti che capiscono bene la portata di questo indebitamento, ma il governo ha potuto mettere sull'unghia 224 milioni di euro da destinare al calcio. Io vi chiedo, se domani mattina i 20 club di Serie A chiedessero 300 milioni di euro di prestito al governo in Italia, quanti alzerebbero la mano per dire ma i soldi ai miliardari del calcio domanda, no? Bella domanda, tutti. Ma infatti, tra l'altro, il fatto che tu abbia fatto il calcolo del lordo è ancora più utile, perché più o meno la metà di quel lordo significa tassazione, e quindi significa che quelle risorse lì sono risorse che vanno direttamente nelle casse dello Stato. Questo per dire che sicuramente ognuno di noi può avere un po' di invidia nei confronti di gente che guadagna 2, 3, 4 milioni l'anno, a parte che poi tolti i big ci sono anche stipendi un po' più normali, ma al di là di questo, e al di là del fatto che l'invidia è comunque un brutto sentimento, c'è un contributo complessivo che la Serie A dà al calcio e che dà ovviamente, scusami, che dà al fisco e che quindi dà allo Stato italiano. Quindi questo non può essere sottovalutato, così come è evidente che anche dal punto di vista, proprio per quella disparità che esiste per esempio fra Serie A e Serie B, fra Serie A e altri sport, tra sport professionistico di altissimo livello e il resto delle discipline sportive, c'è anche una maggiore facilità nell'avere tutta una serie di strumenti di natura sanitaria e determinati protocolli, proprio perché stiamo parlando di un insieme estremamente ridotto di persone che hanno spazi e attenzioni di un certo tipo. E questa cosa qui, ripeto, lo scandalo è se uno che sta male non trova il tampone, ma questo l'abbiamo detto, viene denunciato continuamente, quello è lo scandalo. Non è uno scandalo il fatto che le società di calcio possano spendere una quantità di soldi per avere tutta una serie di protocolli medici per poter isolare i propri calciatori. Questo, se si mettono d'accordo con i calciatori, è assolutamente fa parte della loro discrezionalità ed è chiaramente legato al fatto che stiamo parlando di una nicchia estremamente importante, estremamente forte, ma che produce reddito per il paese. E quindi come tale va trattata? Perdonatemi. Sì, vai Ivan. C'è un altro aspetto che tu hai colto, cioè il prestito. Il nostro calcio, lo ha scritto l'altro giorno, tempo fa anche ieri, è indebitato per 2 miliardi la Serie A, 2 miliardi e 400 milioni. 200 o 300 milioni di prestito fanno diventare 2 miliardi e 700 milioni. I 350 milioni che mancano in questo momento fanno diventare 3 miliardi. Questi soldi poi li devi ritirare fuori. Ma c'è un altro aspetto. Il calcio non ha chiesto un euro al governo. Cioè, il calcio ha chiesto solo dei benefici di imposte, ha chiesto il ritorno della pubblicità degli sponsor. Non ha chiesto, cioè, sa benissimo il calcio, come dicevi tu, che il giorno che gli dà un euro il governo c'è la rivolta. C'è la rivolta giustamente delle fabbriche, degli operai, gli deve dare un euro, giustamente, però deve essere messo nelle condizioni di provare, se ci saranno queste condizioni, a ripartire. Questo è indiscutibile, così come è indiscutibile secondo me il fatto che dicevi tu del contributo complessivo che viene dato al paese, e anche secondo me al di là dell'aspetto strettamente economico, tutto ciò che sembra un po' così astratto, ma è reale. Cioè, una squadra di calcio che gioca a pallone, che gioca alle competizioni europee, insomma, è un elemento di interesse, è un elemento di visibilità verso l'estero. È un modo di stare al mondo, non è soltanto Ivan, poi devo salutare l'ospite che ci ha raggiunto. La differenza tra noi e la Germania è che la Germania la Germania il primo giorno ha detto, la Bundesliga ha detto, sono 10 squadre che saltano se non ripartiamo. Noi invece abbiamo avuto 10 squadre che cercavano di non ripartire per non pagare gli stipendi o per paura di scendere in B. La differenza è sottile, hai capito? Però c'è. Sì, ci siamo mossi un po' in ordine sparso. Allora, saluto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ieri è stata insieme a Lecce la prima squadra a tornare a correre sui propri prati, sui propri campi. Carnevali, buon pomeriggio. Un pomeriggio a voi. Posso chiedere come legge le parole delle ultime ore del ministro Spadafora, quelle che abbiamo provato a sintetizzare qui noi dicendo una netta marcia indietro? Onestamente preferisco non leggere le dichiarazioni del ministro Spadafora ultimamente, faccio a meno, perché ogni volta se no è sempre qualcosa di negativo, poi non si può mai sapere che da un giorno all'altro cambia con grande facilità, per cui può anche essere che tra poco ci racconta qualcosa di differente. L'importante penso che le squadre di calcio abbiano ricominciato, questo penso che sia la cosa proprio determinante. Sì, io ho notato che in mezzo a tante parole che sono state fatte in questi giorni, ma perché c'era da farle, poi mi pare di aver capito che alla fine i calciatori, seppure su base volontaria, non si siano tirati indietro in queste ore. Ma io penso che no, assolutamente no, ma un po' tutti i giocatori e anche credo un po' la maggior parte quasi di tutti i club, perché c'è la volontà di riprendere, la volontà di sperare di poter portare a termine questo campionato, sapendo che ci sono tantissime difficoltà, ma io credo che comunque quello che è successo proprio ieri con l'apertura un po' del centro sportivo, la possibilità di poter dare a questi ragazzi, che non dimentichiamo, sono ragazzi giovani, ragazzi abituati per la loro professione a correre 7 giorni su 7, e dopo 2 mesi di inattività è chiaro che anche loro, al di là proprio dell'aspetto proprio del lavoro, ma anche proprio per quanto riguarda l'aspetto umano, l'aspetto anche psicologico, credo che sia stata veramente una grandissima opportunità, una grandissima soddisfazione. Infatti io posso dire che anche nel volto di questi ragazzi ho visto proprio grande gioia, gioia, speranza e con un barlume di luce, perché credo che questo sia proprio la cosa più importante di tutti. Ivan, e poi ti saluto. Oggi tu hai scritto che cosa serve in concreto al mondo del calcio e alle società per ripartire davvero, fuori sì, dalla logica del rischio zero che non esiste. No, al di là delle polemiche di tutto, saluto Giovanni, servono 3 cose fondamentalmente. La prima cosa è uno scudo penale per le società, perché questo garantisce le società e sotto certi aspetti anche i medici nel caso in cui ci fossero uno o più contagiati e non ci siano rivalse di vario genere e altre cose. Perché naturalmente sai che l'amministratore delegato è sempre quello che ne risponde in tutte le aziende secondo una legge dello Stato. La seconda, la possibilità di trasferirsi ripetutamente da regione a regione. E la terza, lo stato di necessità che permette alla Lega di parlare, di sedersi seriamente con le televisioni e fare un ragionamento. Però, ti ripeto, questi sono secondo me 3 passaggi importanti. Per me non è ancora una battaglia finita, lo spero vivamente che si torni a giocare, perché appunto è una lotta di sopravvivenza del sistema. Però, ti ripeto, quello che mi rimarrà di amaro, se tutto andrà bene, sarà il comportamento di almeno 7-8 presidenti, in particolare 2. Ciao Ivan, grazie. Ciao a tutti, ciao. Alla prossima. Carnevali, servono al di là del seguire il rischio zero che non ci sarà, che cosa serve concretamente per riempire di contenuti questa roadmap che adesso parla della ripresa degli allenamenti di squadra al 18 e magari a metà giugno la ripresa del campionato? Ma io penso che innanzitutto bisogna analizzare bene appena uscirà questo protocollo, perché è da un po' che se ne sente parlare, ne abbiamo già avuto modo di vedere alcuni ma non abbiamo ancora mai visto quello definitivo, che penso arriverà a giorni. E non sarà facile, perché credo che dovremo aspettare anche un po' quello che succederà nei prossimi 15-20 giorni, sperando che ci sia una diminuzione sia dei casi di positività che anche di decessi. E dopodiché dal protocollo si valuterà un po' le possibilità. Sappiamo che sarà complicato, però io credo che dobbiamo avere da parte di tutti la speranza, il desiderio e anche la volontà soprattutto di poter continuare. Credo che sia quasi un obbligo cercare di poter portare a termine questo campionato, perché noi dobbiamo distinguere 2 cose, una quella che è l'industria calcio e uno quello che è lo sport, il divertimento, il calcio giocato. Noi oggi siamo molto preoccupati per quello che è l'industria calcio, per cui credo che dovremmo trovare un po' qualsiasi possibilità. Ci saranno tantissime difficoltà, perché immagino già quello che uscirà dal protocollo, perché quando poi si pensano alle trasferte si pensa un po' tutto, ma credo che poi bisogna trovare anche Le persone, cioè, innanzitutto bisogna decidere, e soprattutto credo che anche chi decida deve avere un po' le competenze, perché la competenza oggi è un po' la cosa che vedo che in molti casi è mancata, e se non si parla di argomenti in cui uno conosce diventa difficile poi trovare il giusto equilibrio anche un po' in tutto. Pier, domande per Carnevali? Sì, volevo che ci raccontasse qualcosa della giornata di ieri, appunto il punto di vista dei calciatori e anche proprio dal punto di vista pratico, se ci spiega com'è, tutte le precauzioni che sono state messe in atto perché ovviamente non si deve rischiare, ma le società per prime, cioè la cosa fondamentale è che le società per prime hanno l'interesse al 100% di tutelare i propri calciatori, perché ovviamente sono persone a cui vogliono bene da un punto di vista umano, ma anche perché sono ovviamente un patrimonio stesso della società, quindi io credo che nessuno voglia andarsi a prendere dei rischi di nessun genere. Questo assolutamente sì, perché diciamo che la prima cosa a cui viene valutato proprio è l'aspetto medico, per cui noi infatti abbiamo sempre detto la salute prima di tutto, ma poi dal momento in cui c'è la possibilità con le giuste precauzioni, è chiaro che, come dicevo prima, l'azienda calcio è come una delle tantissime altre aziende, per cui se uno va a lavorare deve avere appunto le giuste precauzioni. Noi abbiamo iniziato ieri, è chiaro che noi siamo anche un po' più facilitati magari a qualche altro club, in quanto abbiamo un centro sportivo nuovo, un centro sportivo all'avanguardia, è stato sanificato già da un po' di tempo, nei vari campi ne abbiamo voluti utilizzare soltanto 3, due giocatori per campo, per cui proprio rischio contatto assolutamente 0. Sono arrivati i giocatori già cambiati direttamente, per cui non hanno fatto altro che entrare sul campo, non c'era la presenza di staff tecnico, per cui non c'era allenatori, non c'era pallone sul campo, c'era soltanto un preparatore atletico che controlla un pochettino i 6 giocatori che si allenano, che fanno corsa. Per cui in poche parole non abbiamo fatto altro che sostituire il parco dove sarebbero dovuti andare a giocare con uno dei nostri terreni, sicuramente molto più sicuro, senza contatto di persone, con anche un medico nel momento in cui c'è qualche tipo di esigenza, ma col massimo isolamento, con le massime precauzioni. Per cui diciamo che non ci sono stati nessun tipo di problema, tra l'altro i giocatori arrivano 15 minuti distanziati uno dall'altro, per cui non c'è neanche nessun contatto. Quando hanno finito l'allenamento se ne rientrano nelle loro abitazioni e le docce le fanno a casa loro, addirittura i ragazzi si portano anche l'acqua, perché proprio in modo molto semplice, con una buona organizzazione, ma questo ci ha permesso di dare a loro questa opportunità. Guarda, allargando il concetto al paese, no? Io credo che gli italiani abbiano dimostrato fino ad oggi, ci auguriamo anche nella fase 2, che ci sia lo stesso livello di attenzione. Hanno dimostrato, forse in maniera sorprendente per alcuni profeti di sventure, di aver capito le regole, cioè la lucidità che gli italiani hanno dimostrato, e lo dimostra il fatto che in alcune zone dove si temeva che ci fosse un contagio pazzesco invece hanno tenuto benissimo, nasce proprio da questo, dal fatto che la gente è consapevole, ha capito le regole del gioco, quali sono le regole di trasmissione di questo virus. Io leggevo stamattina una cosa che in qualche modo è una conferma, ma che nell'ultimo periodo quasi l'80% dei contagi è avvenuto all'interno degli ospedali, delle case, delle RSA. Sì, non fuori per strada e non sui posti di lavoro. Questo è stato incredibile, perché intesi i luoghi che erano teoricamente deputati per il contenimento del contagio sono diventati inevitabilmente il luogo del contagio. Quindi è chiaro che noi siamo una democrazia e fortunatamente, e nelle democrazie quindi ci sono più libertà ed è più difficile contrastare il contagio. Bisogna farlo attraverso la persuasione, l'intelligenza delle persone. Nessuno vuole farti del male, no, certo. Meno che meno le società di calcio vogliono trovarsi penalmente responsabili dei calciatori che scappano, dei problemi dei loro dipendenti. Volevo chiedere a Giovanni Carnevali se piace o no l'idea eventualmente di concentrare le partite in pochi stadi neutri nelle zone a minor contagio, il centro, il sud, che è uno degli scenari sul tavolo. A me personalmente non dispiace come idea, perché credo che bisogna fare anche di necessità virtù, per cui penso che se c'è questo tipo di possibilità si potrebbe sicuramente, credo che è un'idea che a me piace, perché penso che ci sia proprio possibilità, soluzione, anche perché alla fine se si gioca a porte chiuse un stadio vale l'altro, non è che cambia, bisogna cercare di evitare più spostamenti possibili, per cui penso che è una bella soluzione. Infatti noi siamo propensi su questo aspetto. è molto presto per parlarne, appunto, siamo proprio all'inizio della fase 1, far allenare i giocatori poi si vedrà, ma dico, c'è una disponibilità, ne avete già parlato con i calciatori eventualmente a un periodo, non voglio dire di piccola reclusione, ma insomma a qualche rinuncia in più, a un ritiro, insomma, blindato, dai, insomma. Beh, guarda, assolutamente, perché è talmente tanta la voglia di riprendere che l'idea di stare in ritiro per un periodo ancora più lungo, c'è massima disponibilità da parte, almeno parlo dei nostri atleti, infatti sono molto propensi a poter, basta continuare, va bene tutto, va bene, per cui è chiaro che dopo essere già stati per così lungo tempo nelle proprie abitazioni rinchiusi, stare rinchiuso in un altro posto non fa tanto piacere, ma ripeto, c'è tanta gioia, c'è tanta voglia proprio di ricominciare. Io ieri, quando ho visto i ragazzi arrivare, mi è andato proprio una sensazione sì, di gioia, di piacere, ma nello stesso tempo, quando li ho cominciati a vedere entrare sul terreno di gioco, sul campo, erano un po' spaesati, come se proprio l'aspetto psicologico influisse molto, cioè un po' così, da riprendere quello che è un po' le vecchie abitudini. È chiaro che ci vuole un po' di tempo e credo che sia anche giusto iniziare piano piano, perché se poi dopo si potesse ricominciare avremo un calendario molto compresso con tante partite. Certo. Anche lì è chiaro che non fa piacere, anche perché poi tante società non sono neanche attrezzate per fare 3 partite in una settimana, bisogna fare attenzione. Ma io penso che proprio bisogna fare le cose col buon senso, cercando di non esagerare né da una parte né dall'altra e trovare le soluzioni giuste, anche quella di andare a giocare in una regione che può essere una soluzione di buon senso, può essere una, sì, in tante situazioni penso che bisogna proprio utilizzare il buon senso, che a volte proprio è mancato. Va bene, grazie Giovanni Carnevali, alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Stanno arrivando tantissimi messaggi, Pier, e io mi rendo conto che in questo momento parlare di ripartenza del campionato sia poco popolare. Sarebbe più semplice cavalcare l'onda contraria, sarebbe più semplice fare come hanno fatto questa mattina i tifosi della curva sud della Roma, dicendo che il campionato non deve riprendere, tema di discussione e di dibattito anche altrove, anche in Germania, questo schieramento dei tifosi. E però, insomma, è una cosa che va analizzata sotto tanti punti di vista, lo stiamo facendo in queste settimane. Ivan dalla provincia di Verona. Ivan. Buongiorno e grazie alla convocazione. Vai. Volevo mettere sul piatto 2 questioni. Premesso che sono un gran tifoso di calcio, quindi lungi da me nel fare dietrologia o mettermi a fare battaglia in contrario. Però mi chiedo una cosa. Allora, noi stiamo implementando il protocollo condiviso per le aziende, io mi occupo proprio di sicurezza sul lavoro, con difficoltà, perché comunque c'è da coinvolgere i lavoratori nell'utilizzo costante dei dispositivi di protezione e quant'altro. Si parla di convincere anche in maniera certe volte molto molto persuasiva i datori di lavoro a investire in misure di sicurezza con lo spauracchio della responsabilità penale, però poi mi sento dire tra 14 giorni, quando riprendono gli allenamenti collettivi, come si declina il distanziamento sociale nello sport del calcio? È impossibile declinarlo, Ivan, però è impossibile immaginare che non si possa praticare qualunque attività abbia dei problemi di distanziamento sociale fino a quando non ci sarà il virus, il vaccino contro il virus. Questo è il mio parere, perché non vale solo per il calcio, vale anche per tante altre cose, esattamente come si è declinata il lavoro alle casse del supermercato in questi 2 mesi, per intenderci. Non raccontiamoci che ci sia il distanziamento sociale come ci può essere ad esempio fra me e Filippo Aureggi, che si trova dietro il vetro in regia in questo momento. Non è la stessa cosa e non lo sarà. Aspetta Pier, però dobbiamo fermarci perché c'è la borsa, siamo in ritardo, ma tanto abbiamo poi ancora mezz'ora per parlarne. Il tema è non trovare il rischio zero e inseguirlo. Il tema è capire se ci sarà una soglia di rischio accettabile e se questa cosa potrà portare alla ripartenza del campionato. Il mio parere è che fin qui abbiamo perso settimane di dibattito sterile a inseguire altre cose. Adesso finalmente, ci dice il ministro, si lavora in concreto immaginando che si debba ripartire. Se poi sarà possibile è un altro paio di maniche. Abbiamo la borsa, dopo c'è Filippo Tortu a proposito di atleti che ieri hanno ricominciato ad allenarsi. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Buona la partenza, non benissimo Filippo in 5, Benio Brown, ecco ma come esce? Torto, attenzione, l'innesto la marcia superiore, grande posizione per Torto che va a chiudere, il 9.97! Torto terzo, 10-11. Era dall'87 che un italiano non ci arrivava. 10-11, terzo Filippo Torto, finale. Pronto. Era da Pierfrancesco Pavoni del 1987. Io oggi c'era, scusate, fatemi passare il termine, a tirare fuori le palle, ed è quello che ho fatto ieri, non è andata tanto bene, però l'obiettivo era quello di qualificarsi e oggi sentivo una carica diversa, ho fatto quello che dovevo fare, ho corso rilassato, ho corso per i cavoli miei, ho pensato alla mia gara e vado a farmi la finale ora. In semifinale c'erano quasi tutti gli atleti, mi avevano battuto durante l'anno, non li avevo mai battuti, però mi ripetevano nella testa che nel momento in cui sarebbe contato li avrei battuti, ed è quello che ho fatto. Abbiamo riacceso la macchina del tempo, carissimo Pier, per riportare Filippo Tortu indietro nel passato e farci raccontare dove andrà nel futuro a partire da ieri, da quando ha ricominciato a Giussano ad allenarsi dopo 2 mesi di fermo. Saluto Filippo Tortu, ciao Filippo. Ciao a tutti, ciao Phil. C'è una tutto certa bene? Nostalgia, ripensando. Tutto bene, come è andata la quarantena? Hai mangiato? Bene, grazie, sì, dai, sono in forma. No, non ha messo su neanche un grammo, beato lui. Sentendo queste belle telecronache mi avete fatto venire ancora più voglia di tornare a gareggiare. Com'è stato ieri il primo giorno di scuola? L'emozione era più o meno la stessa, diciamo che come quando ritorni a scuola dopo l'estate, che hai proprio voglia di tornare per risentirti bene, perché io non ero mai stato così tanto tempo senza andare in una pista di atletica, e ieri essere tornato è stato veramente bello, ma non solo perché per me, nel senso dal punto di vista dell'allenamento, naturalmente miglioro le condizioni in cui mi sono allenato in questa quarantena, ma proprio perché per me è un luogo dove sono più felice, quindi tornare in pista è stato veramente emozionante. E poi la cosa che ieri mi ha proprio stupito e reso tutto ancora più bello è stato che dal balcone di fronte alla pista di atletica una signora che non conosco personalmente, ma che finita questa quarantena sicuramente vorrò conoscere, mi ha incitato con la bandiera italiana ed era contenta del mio ritorno. Quindi questo è stato veramente una cosa che difficilmente posso spiegare a parole. No, ma che racconta anche Pier del valore benissimo. Simbolico, no? Dello sport. L'hai spiegata benissimo, e qualche minuto fa parlavamo con Carnevali, cambia la disciplina. Mi sentite bene? Sì. Mi sento male? Vai. Ah, ok, perfetto. E cambia ovviamente la disciplina, ma il concetto è lo stesso, è quello che ci raccontava dei giocatori del Sassuolo. L'atleta è contento quando fa il suo, quando è nel suo mondo, è nel suo mare. Il mare di Filippo ovviamente è la pista atletica. Volevo chiedere se c'è qualche precauzione particolare. La situazione è molto diversa rispetto agli sport di contatto, ma c'è qualche precauzione particolare che stai seguendo ovviamente in questi giorni per gli allenamenti? Ma allora, nel senso, naturalmente arrivo al campo con la mascherina, con i guanti, con tutte le precauzioni, però poi durante l'allenamento io sono da solo in una pista di 400 metri all'aperto, certo. All'aperto, da questo punto di vista non c'è sicuramente il rischio. Siamo io il mio allenatore, però il mio allenatore è anche mio padre, quindi diciamo che non abbiamo questi problemi, per fortuna. Sei doppiamente garantito perché è un congiunto, quindi nessuno può venire esatto. A discutere. Poi, l'ho avuto tutta questa quarantena, per me è stata un mese intenso di raduno, perché tutto il giorno insieme all'allenatore, tutto il giorno ad allenarsi, quindi non è stata sicuramente un'occasione, o meglio, l'abbiamo trasformato in un'occasione, una situazione difficile l'abbiamo trasformata in un'occasione, perché abbiamo lavorato moltissimi aspetti che solitariamente, date le, nel senso, in questo periodo avrei dovuto preparare le gare, non potendo, mi sono concentrato su molte cose che di solito tralasciamo, che però mi hanno fatto molto bene, quindi c'è stato anche qualcosa di positivo. Adesso te lo dice, è arrivato anche il momento di stare un po' meno congiunti. Sì, sì. Dai, Pier. Obiettivi, progetti, calendario, speranze, come... Raccontaci la roadmap, come dicono quelli bravi. Guarda, allora, obiettivi si sono trasformati. Prima erano, diciamo, obiettivi di classifica e quindi di piazzamento, perché volevo andare a medaglia agli europei e in finale alle Olimpiadi. Quindi era una stagione molto, molto impegnativa. Adesso che hanno spostato o cancellato il tutto, l'obiettivo è solamente cronometrico, quindi migliorare il mio personale, il 9,99, e l'obiettivo sarebbe quello di fare 9, o meglio il sogno barra obiettivo è quello di fare 9,92, che è il tempo di Christophe Lemaitre, che è l'atleta bianco più veloce di sempre, quindi un po' anche il mio idolo, quindi raggiungerlo sarebbe un ottimo traguardo. Sì, bisogna dire che togliere 7 centesimi sui 100 metri significa probabilmente anni di lavoro. Sì, è veramente tanto, è, diciamo, quasi cambiare categoria, però se devo essere sincero, malgrado questo imprevisto nel percorso dell'allenamento, mi sento molto bene. Se non ci credo neanche, sicuramente non ci riesco. Quindi sono convinto di poterlo fare. So che è molto difficile, però dai, ci proviamo. Devi crederci, e a noi rimane la suggestione quasi filosofica, no? di 7 centesimi di secondo, che nella vita di una persona sono qualcosa di quasi impercettibile, anzi di assolutamente impercettibile, che sono invece anni e anni di lavoro, quindi è veramente, insomma, il concetto del tempo che lo sport, e che il tuo sport in maniera particolare, basato ovviamente sullo sprint, sa scrivere, è fantastico, per cui in bocca al lupo a questi 7 centesimi. Adesso ogni volta che passerà un secondo penserò a quanto è relativo il tempo, no? Sì, ma anche a me questo capita, perché nel senso, io magari mi alleno tutto un anno, più di 600 ore di allenamento per magari un centesimo. Questa cosa a me fa spesso riflettere. L'anno scorso ho fatto in totale 1:10 di gare. Un minuto e 10 di gare con appunto più di 600 ore di allenamento. Quindi è un rapporto che spesso mi fa riflettere. Praticamente 1 a 55, 600 ore di allenamento? 55 sì, sì. Per 600 fa 1 a 33.000, se non vorrei dire cose palle. Guarda, ti vorrei dare una mano, ma siccome sto preparando le domande di matematica, all'università, allora non vorrei fare brutte figure in diretta. Sì, non sprecare energie, che potrebbe esatto. essere meglio soprassedere. Potrebbe essere 0,5 centesimo di secondo risparmiato questo sforzo in meno. Assolutamente, no, ma io credo che darsi un obiettivo così ambizioso sia anche il modo per tenere viva la motivazione in un momento in cui semplicemente una roadmap non esiste, perché non esiste un calendario di gare credibile. Certo. E questo vale un po' per tutti gli atleti di tutti gli sport. Le Olimpiadi sono state rinviate al 2021 e forse per un atleta di 21 anni come Filippo Tortu non è detto che sia una cattiva notizia una volta smaltita la delusione. Sì, nel senso che io cerco sempre di prendere il lato positivo delle cose, e questo rinvio innanzitutto ha portato appunto un po' uno smarrimento, perché mi sono allenato più di 4 anni per questo momento e da un giorno all'altro più o meno viene portato via. Naturalmente io sono totalmente d'accordo sulla decisione di rinviarle, hanno fatto più che bene vista la situazione in cui siamo tutti, però appunto il lato positivo è che ho un anno in più per prepararmi e per arrivare più competitivo. e questo, anche questa è una chance che devo sfruttare il più possibile. Dietro tutte le cose, Pier, c'è la possibilità di ricavare una morale positiva. Siamo vicini al traffico, io voglio salutare Filippo Tortu chiedendogli un'ultima cosa, e cioè come immagina l'Atletica a porte chiuse quando ripartirà? Questa è una, per come sono fatto io è difficile da immaginare. Mi piace molto l'ambiente dello stadio e soprattutto del pubblico, ma la cosa secondo me più bella è il silenzio che c'è prima di una partenza, perché tutto lo stadio aspetta lo sparo insieme a noi atleti in un rigoroso silenzio, però quel silenzio si rompe in una frazione di secondo. Immaginare che invece adesso sia prolungata per tutta la durata delle gare fa strano. Ho provato sia a correre davanti a un pubblico di anche 70.000 persone, e invece l'anno scorso a Doha abbiamo fatto i campionati del mondo dove non c'è stata assolutamente risposta dalla popolazione, e un po' il mondiale ha perso perché c'era pochissimo pubblico, però alla fine quello che conta è l'idea di poter tornare a correre anche se a porte chiuse. Io la vedrei come manna dal cielo. Sì, però bisogna abituarsi, ma in assenza di possibilità di avere il pubblico è l'unico modo per ripartire. Grazie Filippo. Grazie a voi. Ciao, bellissimi. A presto. Ciao, grazie. Allora, abbiamo il traffico. Chiedo un attimo di pazienza a Roberto dalla provincia di Parma. Ripartiamo da lui dopo il traffico, poi torniamo un po' a chiacchierare di calcio. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Rieccoci Roberto dalla provincia di Parma. Roberto. Ciao, buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a te, vai. Io faccio parte dei cosiddetti sport minori, sono maestro di sport da combattimento e ovviamente in questo periodo siamo disperati perché non sapremo quando potremo ripartire, perché ovviamente io sono maestro di kickboxing, quindi è uno degli sport dove c'è più contatto in assoluto. Voi che idea potete avere di quando si potrà ripartire con i nostri sport? Io non ho purtroppo questa risposta, Roberto. Neanch'io. Posso applicare quello che ho detto prima. Immagino prima che si arrivi al rischio zero, anche negli sport di combattimento, come in tanti altri sport. Io immagino il rugby, ad esempio. Bisogna trovare una soglia di rischio accettabile, normarla, controllarla e fare in modo che sia possibile riprendere. E su questo io credo ci sia una riflessione da fare e che si estenda anche ai prossimi mesi, Pier. Sì, ma ci sono mille variabili. La prima variabile è il virus, ovviamente il comportamento che avrà questo virus. Sappiamo che ci sono mille possibilità, una diversa dall'altra, quindi questo è il primo tema. Poi la diagnostica, i passi avanti della diagnostica, i passi avanti anche della farmacologia, ancora prima del vaccino, perché è chiaro che se si stabilisce, e qualcosa di incoraggiante l'abbiamo sentito, no? Un protocollo già che rende questo virus molto più facilmente decriptabile, decodificabile e curabile da subito, non diventerà mai un'influenza normale, purtroppo, temo, però sicuramente cambia anche l'approccio, no? che si può avere. E poi arriverà il giorno del vaccino, questo è quello che si immagina. La scienza sta lavorando, risposte non ne abbiamo. È chiaro, come dicevamo prima, che la diagnostica può essere molto utile. È chiaro che gli sport dove girano più soldi, tanto per essere chiari, dove girano più interessi, hanno anche la possibilità di permettersi un approccio. Di permettersi le situazioni diverse, ma questo non vale solo per il calcio, vale per il basket NBA, vale per i grandi atleti. Vale per la Formula 1, certamente a luglio. Se tu c'hai a quel punto un tampone capace di diagnosticare in tempo reale, a darti il test sierologico che ti dice tutto, tutte le persone che sono a contatto in un'area dei box, le monitori, e quindi a quel punto meglio evitare il contatto, ma se anche c'è il contatto non dovrebbero esserci problemi. Questo è lo scenario. È chiaro che lo sport di contatto a livello amatoriale è quello in questo momento che rischia di più. E io però spero anche quello poi destinatario degli aiuti, non dovendoli disperdere altri sport più ricchi che possono provare a ripartire. Giovanni, anche grazie alla mutualità degli sport ricchi e del calcio, che pesa, lo sappiamo, per il 32-33% del budget complessivo, poi, perché questo è fondamentale. Ecco, il calcio, secondo me, il calcio di Serie A, tanto per essere chiari, è chiaro che deve avere la possibilità di ripartire in sicurezza, ma è altrettanto chiaro che deve contribuire ad aiutare gli altri sport, cosa che succede e che deve continuare a avvenire. Certo. Allora, saluto Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Saluto a te e a Pier. Buon pomeriggio a tutti. Allora, sistemiamo il collegamento audio di Carlo, che ha qualche problema, ma intanto vi faccio sentire Carlo Ancelotti, un altro Carlo, proprio con Carlo Pellegatti un paio di giorni fa. L'arrivo di un allenatore straniero deve far un po' spaventare il tifoso del Milan? No, al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi. Ti devi concentrare su quelli. Fortunatamente il Milan ne ha scelto tanti bravi. Allora, si stava parlando di Ragnik, che oggi ha riempito le pagine dei giornali sportivi. Carlo Pellegatti, a che punto siamo? Perché io fatico a trovare una linea coerente nel capire che cosa è successo in questi mesi intorno a Ragnik, al Milan, a Boban, il licenziamento, al futuro e che cosa accadrà poi. Ma guarda, allora, da quello che so io, stiamo sempre un po' cauti, ma per me il candidato, e rimane il candidato numero uno alla panchina del Milan. Non faccio il fenomeno, arriva sicuro, fidatevi, no. Rimane il candidato. Esa, bravo, bravissimo. Ho visto la moglie che faceva. Andava da De Padova, non dall'IKEA. De Padova è un meraviglioso negozio di mobili in Corso Venezia. Non andava all'IKEA, ma abbiamo visto da De Padova. No. Rimane il candidato numero uno. Avevo detto già a Tiki Taka l'ultima puntata. Che studiava italiano, ma poi nelle ultime settimane ho avuto notizie più precise, 3 ore alla mattina, 3 ore al pomeriggio, escludendo che lo faccia per andare a prendere una pizza a Capri, quindi, o sul lago di Garda, quindi è un'altra diciamo tassello. Quindi per me è il candidato numero uno, anche perché il Milan vuole rivoluzionare completamente il discorso e vuole essere la prima mossa vera, originale del fondo Elliott. Perché il fondo Elliott, quando è arrivato, hanno chiesto consigli e hanno preso Leonardo, ma non è stata una scelta. Certo, è scelta perché ha firmato il contratto, quindi chi conta chi firma il contratto, ma l'ispirazione non era certa del fondo Elliott. Sì, ma che cosa viene a fare Carlo Ragnik, l'allenatore, il direttore tecnico, tutte e due le cose? Bravissimo, ci sono anche questo. Allora, io ho sempre pensato, e ho avuto conferma oggi, perché gli attenti colleghi di Milan News hanno parlato con un giocatore già della Fiorentina Comper che ha lavorato 7 anni con Ragnik. Allora, facciamo ordine. Io ho sempre pensato che lui venisse a fare, come all'Ipsia, il plenipotenziario, allenatore e direttore generale. Cioè, sono io, decido i giocatori, sono io la figura. E dopo apro una parentesi perché mi sarebbe piaciuto questo. Poi mi ha messo una pulce in orecchio una decina di giorni fa, non verrebbe solo come direttore generale con un allenatore, ma attenzione, allenatore scelto da lui, certo, come non Marco Stefano Rose, Pioli. Come, no, ma neanche un altro, come Mark Rose del Salisburgo, che lui prende nella Under 16, Under 18 e lavora con lui, perché lui è il plenipotenziario Red Bull. Poi, attenzione, settore giovanile, molti non lo sanno, il Salisburgo vince la Youth League, che uno dirà, avessi detto no, ha battuto l'Atletico Madrid, il Barcellona in semifinale e in finale il Benfica, e la Youth League giocano le più belle squadre inglesi, italiane, ed è una manifestazione molto prestigiosa. È la Champions League delle primavere, adesso tradotto per chi ci ascolta. Mark Rosa va al Salisburgo, sempre sotto l'egida, perdono con il Duc Lange, perdono e vengono eliminati incredibilmente in Champions League, e allora disastro, ma si riprendono, Mark Rose vince il campionato e arriva in semifinale in Europa League, a dimostrazione che lui è plenipotenziario. Oggi Mark Rose, che è allenatore del Borussia Mönchengladbach. Mm. Ecco perché potrebbe mettere XY, vuol dire che mette un allenatore che magari non conosciamo, non è quello, ha fatto così con Salisburgo. Però devo capire se oggi, per esempio, Comper nell'intervista ha detto che secondo lui viene a fare l'allenatore, ha voglia di fare l'allenatore. Cioè ha voglia di rimettersi i pantaloncini e andare in campo. Sì, ma però i giocatori li prende lui. E lui ha scelto 8 giocatori ai tempi della sua carriera tra Hoffenheim, Schalke e Lipsia. Ha preso 8 giocatori, parliamo di Firmino, parliamo di Kanté, parliamo di Mané, altri giocatori, con una spesa totale di 29 milioni di euro. Sì, ha preso 8 assegni circolari, per tradurlo in maniera semplice. Cifre precise, le ho fatto i calcoli e mi sono messo lì. Questi giocatori venduti, attenzione, dopo ci spiego venduti cosa vuol dire, hanno portato a casa 238 milioni di euro. Però arriva il tifoso del Milan: noi non siamo una squadra che compra per vendere. Risposta? Ma quando io dico, era solo per far capire che un giocatore pagato 1,8 all'Istres, città del sud della Francia, squadra ovviamente non da grandi ribalte, poi però lo vende a 23, ma questo non vuol dire che il Milan farà questo, perché qui c'è questa leggenda che il fondo Elliott prende per vendere e autofinanziarsi. Deve essere un progetto sostenibile, ma tanto questa leggenda, caro Giovanni e caro Pier, anche se noi continuiamo a dirla, ormai si va su quella direzione lì, e va bene. E noi siamo qui poi a cercare di capire passo per passo, ti devo fermare perché siamo lunghi, siamo già fuori sul GR, no? Dicevo, siamo qui per poi cercare di verificarla passo su passo, dargli concretezza o lasciarla invece nell'ambito delle leggende. Grazie a Carlo Pellegatti, ciao Carlo, alla prossima, grazie anche a te Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani dopo il GR delle 14, io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Miriam Lucchetti in assistenza, Filippo Aureggi e Marco Ferronato che ci hanno aiutato nella parte tecnica, a domani, ciao! Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!